24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Anna Maria Furlan, 56 anni, genovese, sposata con un figlio, una carriera nel sindacato. Ha scalato tutta la piramide. Quando Bonanni se n'è andato, è arrivata lei con un voto quasi unanime. Tosta e spigolosa, dicono quelli che la conoscono, ma anche brillante e sensibile, sa toccare le corde del cuore. Adesso le è capitata una rogna, tirar fuori la CISL in un momento difficile per il sindacato dall'affair Bonanni, cioè dalla scoperta al suo maxi stipendio. Ecco, segretario Furlan, esiste un affair Bonanni? Assolutamente no. Ecco, ma quello che è capitato ha fatto male all'immagine della CISL? Forse un po' ha fatto male, ma la CISL ha migliaia e migliaia di militanti, quella è la CISL. Ma lei ne sapeva niente? No. Senta, segretario Furlan, ai tre sindacati ogni anno arrivano quasi 1.200.000.000. Sono tanti soldi. Quanto arriva la CISL? Sono una parte di questo, ma non sono soldi al sindacato. Sono i servizi che fa il sindacato per lo Stato. Ma voi avete un bilancio pubblico da cui si capisce con chiarezza come li spendete? Certo, basta andare sul nostro sito, chiunque lo può vedere. Ma anche altri soldi che arrivano dai distacchi sindacali del pubblico impiego e fondi patronato, anche quelli sono nel bilancio, nel sito? Certo, i fondi dei patronati non vengono dallo Stato, è un fondo a cui partecipano i lavoratori e le imprese. Senta, segretario Furlan, in generale il sindacato è al centro di una crisi di rappresentatività forte. Perché? Non ha crisi di rappresentatività, non sa rappresentare spesso il nuovo, e a quello che ci dobbiamo aprire. Ecco, segretario Furlan, anche la CISL, infatti, ha un grande ritardo rispetto al problema della disoccupazione giovanile e del precariato. Ma che cosa non avete capito? Che stava davvero cambiando profondamente il rapporto di lavoro. Non abbiamo saputo coniugare sino in fondo il nuovo. Ecco, ma perché rappresentate chi lavora o chi è in pensione e non riuscite a rappresentare chi cerca il lavoro? È quello che dobbiamo imparare a fare, e per fare questo dobbiamo cambiare noi stessi. Ma dove soprattutto? Nel rapporto con i giovani. Ma lei conosce dei giovani che si rivolgono a voi per cercare lavoro? Certo, ogni giorno si rivolgono a noi. Non abbiamo però spesso sintonia di linguaggio. Dobbiamo rappresentare meglio quei bisogni. Senta, segretario Furlan, la garanzia giovani, che vale 1,5 miliardi di euro, messo a disposizione dall'Europa per l'Italia, ecco, sono soldi rimasti quasi intatti. Perché? Perché non ci sono i posti di lavoro. Prima di pensare a come si possono occupare le persone, bisogna creare i posti di lavoro. Sì, però lo sa che dei 283.000 iscritti al portale Garanzia Giovani, solo 50.000 hanno fatto un colloquio. Esatto, perché non funzionano i servizi per l'impiego, quelli sono tutti da rifare. Ecco, ma i servizi per l'impiego siete voi che dovete gestirli sostanzialmente, dovevano essere appunto loro che intermediano il lavoro. Purtroppo non è così. Ma infatti intermediano solo il 2% del lavoro, però è un vostro fallimento questo. Purtroppo non è il sindacato che si occupano di questo, anche. Non sono gli uffici pubblici, bisogna rifarli e bisogna che le parti sociali si sporchino le mani in questo, è l'unico modo per creare davvero posti di lavoro per i giovani. Ma sono carrozzoni burocratici e basta, quindi, sostanzialmente. Hanno anche elementi di qualità, ma non sono messi in rete tra di loro. Senta, in questo settore si danno da fare anche i privati. Senta la storia di questo ragazzo che ha fondato Job Your Life. Job Your Life conta 250.000 utenti in crescita e abbiamo circa 300 aziende iscritte al sito. L'idea è venuta da una problematica, cioè io volevo fare un altro sito, però io non sono un programmatore e quindi mi servivano dei programmatori, ma mi era praticamente impossibile trovarli nel web, era molto molto difficile con i classici annunci, e quindi ho detto: ma è possibile che non esista una piattaforma che mi geolocalizza le competenze che mi servono dove mi servono? E da lì è nato l'embrione dell'idea. Permette alle persone di trovare il loro lavoro ideale dove desiderano, nel senso che le aziende hanno la possibilità di entrare in un sistema avanzato di ricerca che gli permette di trovare i candidati nella zona geografica in cui li cercano, un po' come avere dei curricula sopra Google Maps, e a loro inviare un annuncio mirato. Il potere sta un po' al candidato, se lo accetta va direttamente in contatto con l'azienda per un colloquio. Noi abbiamo invertito quello che è il processo classico per la ricerca di lavoro online, che detta molto velocemente funziona così, è sempre stato così: l'utente va online, va sui vari siti di job posting, cioè dove si trovano annunci di lavoro, guarda i vari annunci e si candida. Queste due grosse problematiche: la prima, che i candidati ricevono pochissime risposte da parte dell'azienda; dall'altra parte ci sono le aziende che ricevono migliaia di curricula non adatti magari a quello che loro stanno cercando, perché non c'è alcun tipo di filtro. Noi abbiamo invertito il processo, non sono più i candidati a dover cercare gli annunci, ma sono direttamente le aziende a mandare loro annunci mirati. Beh, mi sembra una strada, no? Certo, bisognerebbe prenderlo come consulente per il Job Act. Secondo me mi sembra una buona idea. Senta, Susanna Camusso, un anno fa, esatto, qui a Mix 24, diceva: mai più uno sciopero generale se non è uno sciopero unitario. Adesso ne ha proclamato uno per il 5 dicembre, vuol dire che è unitario? Vuol dire che solo della CGIL l'ha proclamato la Camusso. Niente, voi non ci sarete. Non ci pensiamo nemmeno, non è oggi lo strumento adatto. Perché? Perché c'è il giorno dopo, e il giorno dopo di uno sciopero generale bisogna che il paese cambi e riparte. È un processo un po' più complesso da mettere in piedi. È una rappresentazione e basta? Beh, è la volontà di quell'organizzazione. Noi pensiamo che per ottenere i risultati vadano fatte altre cose. Quindi ha torto la Camusso? Beh, dal mio punto di vista non ha fatto la scelta che si deve fare. Senta, in pochi giorni sono cambiati il segretario della CISL, se lei, è quello della UIL. È il segno della crisi del sindacato o che sta cambiando veramente tutto? È il segno che sta cambiando anche il sindacato e si rinnova a partire dal gruppo dirigente. E quindi toccherà anche alla CISL, alla CGIL? Beh, sarà anche per lei il momento del cambiamento. Senta, ma tra la Camusso e Landini, lei personalmente con chi ha più facilità di dialogo? Forse con la Camusso, ma ogni organizzazione si sceglie il suo capo. E perché ha più facilità con la Camusso che con Landini? Beh, ha più spirito confederale. Cioè Landini com'è? Penso che sia rivolta al passato, e non abbiamo bisogno di chi si rivolge al passato per creare il futuro. Comunque lo scontro tra Renzi e la Camusso sembra uno di quelli che finiscono senza prigionieri. Lo pensa anche lei? Il problema è che l'Italia non finisca senza prigionieri. Ma fra loro però mi pare che sia messa male, insomma. Forse è messa male, però ripeto, quello che a me interessa è il giorno dopo. Cosa succede per ripartire, non gli scontri tra di loro. Sì, però sono scontri che sono fondati su due visioni diverse del mondo. Proprio giorni fa la Camusso aveva una t-shirt con scritto Arrogance rivolto a Renzi. Lei la metterebbe una t-shirt così? No. Perché? Perché non mi piace, perché non credo nelle provocazioni, credo nel dialogo. I renziani rispondono dicendo fanno lo sciopero il 5 per poter fare il ponte dell'Immacolata. Mi sembra che sono a schiaffoni proprio. Ma mi sembra che siamo un po' a livello basso nelle battute. Senza Renzi, però, invece, parlando di cose più serie, dice che il sindacato, invece di aiutarci a semplificare, spesso mette i bastoni fra le ruote. Qualche ragione ce l'ha? Credo che stia semplificando troppo lui, e a forza di semplificare alla fine non abbiamo i risultati concreti. Ma le piace Renzi o no? Sì, mi piace perché ha voglia di cambiare. E che cosa non le piace? Il fatto che pensa di poterlo fare tutto da solo. Non c'è nessuno che può riuscirci. Però l'esigenza di semplificazione di cui parla Renzi in Italia c'è. Come no? C'è in tutti i settori, a partire da quello pubblico. Ecco, nel pubblico ci sono 36.000 centri di spesa autonoma. Quanti bisogna cancellarne? Tanti. La Francia, che è un paese un po' più grande del nostro, ne ha 100. Ecco, ma lei da dove comincerebbe per semplificare? Togliendo proprio i centri di spesa. Sarebbe un buon modo anche per combattere la corruzione. Ma partendo da dove? Perché in generale va bene, ma in particolare? Dalle regioni e dai comuni. Lì ne abbiamo davvero tanti. Cioè le municipalizzate le cancellerebbe tutte? Non le cancellerei, ma farei in modo che fossero soltanto quelle che sanno stare sul mercato e hanno i buoni bilanci. Senta, segretario Furlan, per un sindacato come la CISL, che ha 2 milioni di pensionati, 400.000 statali su 4 milioni di iscritti. Però semplificare per voi cosa vuol dire? allargarci, guardare fuori dall'organizzazione rivolgendosi a chi oggi non è iscritto, in modo particolare ai giovani. Senta, ma accettate la mobilità proposta dal ministro Madia per gli statali? Non abbiamo mai detto di no, abbiamo detto che la vogliamo contrattare per tutelare le persone. Quindi il principio siete d'accordo? Certo, ma è con la contrattazione che si fanno le cose. Ma la sua riforma della Madia della pubblica amministrazione vi convince o no? No, è molto molto debole. Perché? Non va al cuore del problema, perché bisogna fare la riorganizzazione della pubblica amministrazione in concomitanza alla riforma della pubblica amministrazione. Ma è quello che vuol fare? No. Per adesso siamo soltanto ai titoli sulla semplificazione. Ma ne avete parlato? Ben poco, forse lunedì. Iniziamo a parlarne seriamente. Ah, allora sarà un buon momento. Senta, ma a proposito dell'accordo, il governo di posizione sua, lei è d'accordo col governo che dice le leggi le facciamo noi, senza concertazione, voi fate i contratti? Non è una grande novità, le leggi le fa sempre il Parlamento, bisogna capire... Ma il processo per arrivarci, sì. Appunto, bisogna capire se a partire dai temi del lavoro l'interlocuzione con le parti sociali è considerata per il governo un valore aggiunto o un impedimento. Ma una maggior contrattazione a livello aziendale in molti casi però non può favorire gli aumenti salariali, che certo, poi sono l'obiettivo? È fondamentale, è proprio con la contrattazione aziendale che si rilancia l'impresa e si crea produttività, però la ricchezza va distribuita. Ecco, segretario Furlan, però gli imprenditori simbolo del renzismo, Cucinelli, Farinetti, insomma, eccetera, hanno poco o nessun rapporto con i sindacati, è il nuovo che avanza? È un loro limite. Perché limite? Perché non crescono le aziende in però questo modo. Però sono aziende che vanno bene quelle. Sì, però bisogna fare anche qualità. Beh, ma qualità di che cosa? Nel rapporto aziendale la qualità lì c'è. La qualità attraverso l'innovazione, la qualità davvero che significa rilanciare il paese. Però non è detto che passi attraverso il sindacato, quella qualità nelle aziende. No, infatti passa attraverso la contrattazione per valorizzare il lavoro. Senta, segretario Furlan, però l'ostinata difesa dei diritti acquisiti è quello che ha limitato la vostra capacità di dialogo con i più giovani in realtà. Lei dice, giovani e precari, dobbiamo trovare il linguaggio per parlargli, ma poi quella difesa dei diritti acquisiti ha impedito quel discorso. Sì, nella crisi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro, tanta gente licenziata. Di che diritti acquisiti parliamo? No, vabbè, no. Ci sono i diritti acquisiti difesi dal sindacato, poi ci sono i posti di lavoro persi per la crisi, sono due cose diverse. Beh, ad esempio il pubblico impiego 6 anni senza contratto, le sembra un diritto acquisito? No, non mi sembra un diritto acquisito, però stiamo parlando di una cosa diversa. Segretario, per esempio, lei è favorevole a continuare a rifinanziare la cassa integrazione in deroga? Sinché non troviamo un modo diverso, non c'è dubbio. Cosa vivono quelli che oggi hanno la cassa integrazione in deroga? Certo, ma non è un gatto che si morde la coda, perché così è difficile ristrutturare le aziende e allora i posti di lavoro non ci sono neanche per i giovani e poi neanche più per quelli in cassa integrazione in deroga. Cioè... è un limite la ristrutturazione delle aziende, quello? No, direi che non c'entra niente con la ristrutturazione e la riorganizzazione delle aziende. Bisogna rivedere le tutele, allargarle. Ecco, ma Renzi dice che bisogna difendere le persone, non le aziende decotte. Assolutamente ragione. Allora, la cassa integrazione in deroga magari difende anche le aziende decotte. No, guardi, in tanti casi è un momento di crisi aziendale per chi oggi non ha la cassa normale e attraverso questo le aziende sono riuscite a sopravvivere. Mi fa degli esempi. Sopravvivere o ristrutturarsi? Perché sono casse integrazioni che durano anche molti, molti anni. In questi 6 anni un po' si sono anche ristrutturate, ma già sopravvivere è stato un successo per molti. Ma non sarebbe meglio il salario minimo garantito? Direi proprio di no, esattamente il contrario di quello che serve. Perché? Perché attraverso la contrattazione si rilancia la produttività. Se è minima garantita, diventa minima garantita anche la produttività. Lei ha detto che nel Job Act ci sono degli ottimi spunti. Quali? Ma ad esempio questo contratto a tutele crescenti, a tempo indeterminato, rivolto però, io aggiungo, e su questo vedremo cosa fa il governo, innanzitutto ad assorbire le tante precarietà che abbiamo nel mondo del lavoro. Cioè va nella direzione giusta il contratto a tutele crescenti? Quello lo vediamo attraverso gli incontri che faremo sui decreti attuativi. Per adesso siamo ai titoli e alle slide. Senta, ma Le sembra che con Poletti vada meglio o peggio che con la Madia? Beh, Poletti un po' più di cultura del lavoro sicuramente ce l'ha, tanti anni di esperienza rispetto a questo. Senta, segretario Furlan, il presidente Napolitano, però, dico Napolitano, dice che sul lavoro ci vuole più coraggio, che l'Italia non può restare prigioniera di conservatorismi corporativi. Non si sente un po' chiamata in causa? Parla anche un po' al sindacato, mi pare. Penso che parli al sindacato, ma penso anche che parli alle imprese. Ad esempio, in questo paese, quando iniziamo a parlare di partecipazione, per la Germania è stata la carta vincente. Ecco, lei è favorevole alla cogestione nelle imprese? Io sono favorevole alla partecipazione, alla responsabilità. Che poi significa alla fine cogestione. Senta, ma gli accordi sottoscritti dai sindacati per l'Expo sono un modello di contratto per il futuro, secondo lei? Ma credo che sia un buon modello di riferimento quando si crede in qualcosa nel paese e si porta avanti. Senta, ma lei ha parlato di Europa. Ecco, in Europa, secondo lei, la battaglia di Renzi è nella direzione giusta? Assolutamente sì, è quello che condivido di più delle cose che Renzi sta facendo. La battaglia in Europa? La battaglia in Europa, portare l'Europa dello sviluppo e non solo del rigore. Senta, lei ha detto che è favorevole alla cogestione, ma da quando? Come? Da sempre. Questo è un pallino della CISA, ha iniziato Pastore a parlare di partecipazione. Senta, ma dopo quello che stiamo dicendo, la CISL targata Furlan, che obiettivo si dà? La partecipazione nelle aziende da parte dei lavoratori e la rappresentanza dei bisogni e dei sogni dei giovani. Sì, però per adesso rappresenta tanti pensionati. Certo, persone che hanno dato tanto al paese e dopo tanti anni di lavoro oggi vivono con 700-800 euro al mese. Ne siamo orgogliosi di rappresentarli. Senta, lei è sindacalista da sempre. Non le manca un lavoro concreto in azienda? Mi sembra molto concreto il lavoro che faccio, dalla mattina alla sera. No, ma l'esperienza dell'azienda? L'ho fatta, è importante anche quella, il sindacato però è una passione. Cioè, sindacalista da sempre, per sempre, va bene secondo lei? Per me è stato importante, è una passione che continua a esserci a 56 anni, come quando ne avevo 23. Senta, sulla RAI, lei se n'è occupata, Renzi dice cambiamo tutto, ha ragione secondo lei? Spero proprio che lo faccia, ha ragionissimo. Lei si è occupata dell'audiovisivo, per lei servizio pubblico cosa vuol dire? Sistema paese, coesione sociale, solidarietà, stare insieme, fare cultura, far crescere, educare, molto distante da quello che oggi la RAI purtroppo fa. Senta, segretario Furlan, c'è un luogo comune che sente ripetere sul sindacato e che le dà molto, molto fastidio? Sì, che protegge solo i garantiti. Perché? Lei dice perché che non è vero. E perché nonostante tutti gli sforzi che in questi anni abbiamo fatto per aprirci ai giovani, spesso e volentieri non siamo stati ascoltati da nessuno. Ecco, ma gli strumenti per questo aprirsi, che lei dice mancano, non abbiamo sviluppato, quali sono in concreto quelli che nella gestione Furlan la CISL metterà sul terreno? Anche nel sindacato, anche nella CISL, meno ruolo al centro, meno risorse al centro, più nelle aziende e nei territori, è lì che incontriamo i giovani. Ecco, lei ha detto una cosa importante, sì alla battaglia di Renzi in Europa, ma la battaglia di Renzi in Europa è una battaglia contro l'euro anche? No, è una battaglia per smetterla attraverso un rigido fiscal compact a non investire più sullo sviluppo e sul lavoro. E quindi sostanzialmente un ritorno allo spirito vero di Maastricht. E io spero proprio che arrivi, ne abbiamo bisogno tutti in Europa. Senta, segretario, le faccio un'ultima domanda. Qual è l'ultimo contratto che ha firmato di cui è più fiera? A livello confederale facciamo gli accordi, sono quello per la rappresentanza e l'ultimo che abbiamo firmato è quello di cui vado fiera, perché davvero dà ruolo ai nostri delegati e alle nostre delegate. Ecco, questo nella rappresentanza, ma nella sua esperienza sindacale complessiva, partendo dall'inizio, ce n'è uno proprio di contratto a cui è affezionata per una ragione che io non so, ma lei sì? Beh, nella mia azienda Poste Italiane, quando facevo la sindacalista in azienda, quando abbiamo trasformato da azienda pubblica a azienda SPA, le Poste Italiane sono cresciute moltissimo, hanno dato tanto lavoro e tanto servizio agli italiani. E quello era con Passera? Come no? Grazie, grazie. 800 800 24 0024, l'SMS 349 238 6666. Il titolo del faccia a faccia con la Furlan, Mario? È tosta. Mi è venuto questo, cioè, è una dura che sa le cose, molto tosta. E tu, Pietrangelo? Ce ne ho due. Uno è: Renzi spezzerà le reni all'Europa, e l'altro, vagamente marxiano: licenziati di tutta Italia, esodatevi. Senti, canzone. Questa canzone, Pietrangelo? Perché questa canzone dipende da questo, che la stagione nel frattempo è invecchiata, quella nuova è di là da venire, e oggi osservavo le facce metropolitane e vedevo facce la cui anima era tutta annodata, tutti sfilacci di vita, ed erano tutti in cerca di vento, per dare vento al vento e il perdersi dietro al vetro. Chi metropolitana, ma anche chi muovendosi corre o sta ferma ai semafori, nelle automobili, e quindi sommano gli istanti di pensiero che sono quelli dove ognuno vuole rivivere vento nel vento. Vento nel vento, sì. Caro Mario, con le sue bolle non ci riuscirai mai. Non ci penso minimamente. Cosa bolle? Quello è merito di Battisti. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più. Davvero. La vuole. La vita, allora, siamo al gioco o al non gioco? Se ne va o non se ne va? Juncker resta. Mi pare che resta, non ha nessuna intenzione. Non ha nessuna intenzione, ma... Ma nessuno ha chiesto che se ne andasse, poi in realtà veramente. L'Espresso. Veramente. L'Espresso ha fatto questo titolo, sì, è inadatto. Insomma, ripete quello... Un po' i socialisti, ma non troppo. I verdi, ma non proprio con quell'aggressività. La Le Pen. Che conosciamo. La Le Pen bisogna fare minoranza. Cronaca, l'ha chiesto. Ma vogliamo ricordarlo quando tutti i giornaloni importanti erano contenti? Per il duello di Juncker contro Madame Le Pen? Tutti contenti, guarda quanto sono contenti. Allora, comunque, allora, siamo alle Sturmtruppen. Io me la sto seguendo bene, è assai divertente questa cosa. Allora, cosa dice Juncker? Juncker dice che lui non è assolutamente responsabile dell'architettura fiscale del Lussemburgo, ma sì, certo, e anche per Bacco, forse un po' di responsabilità politica ce l'ho, lui dice. Allora, insomma, in fatto di elusione mi pare che Juncker dimostri anche in questo caso di essere un maestro, però aggiungo, le cose gli fanno parecchio male in realtà, perché sì, forse lui resta e regge anche, ma i tedeschi gli hanno lanciato un siluro di quelli mostruosi, perché ha parlato Schäuble, il ministro delle finanze della Germania, e ha detto: non tutto ciò che è giuridicamente possibile corrisponde ad equità. Certo. Per cui Achtung, si dice così in tedesco, sì, io non conosco il tedesco, Achtung va bene? Okay. Benissimo. Dopo poi ti faccio la scenetta del tedesco, visto che tu me la fai dell'inglese. Va ecco. Andiamo, tira fuori un verdone. Non do mance. Non dai mance? No, non ci credo. Non credi nelle mance? Sai quanto guadagna una cameriera? Un cazzo di niente. Ma non mi dire, allora perché non se ne va? Neanche un ebreo avrebbe il coraggio di dire una cosa del genere. No, fammi capire, allora tu non dai mai la mancia? No, perché la società mi dice di farlo. Cioè, la mancia la lascio se proprio se la meritano. Se proprio si impegnano al massimo, lascio un piccolo extra. Ma lasciarla così solo perché si deve è una stronzata. Allora, questo è un fantastico dialogo tratto dalle Iene. Il dialogo sulla mancia, la filosofia della mancia. La filosofia della mancia. Insomma, quello non la lasciava la mancia, non la voleva. La danno invece ai partner di Goldman Sachs, che ha appena nominato, ha fatto un turno di promozioni, 78 suoi altissimi funzionari li ha fatti diventare partner. Il loro compenso annuale base, sapete di quant'è? Quanto? $900,000, che non sono proprio bruscolini. Base, naturalmente, poi ci sono i premi, vari compensi e così via. Aspetta che ti... Scusa un secondo, sì, se ti interrompo. Giovanni ci chiede: buongiorno, è possibile avere l'indirizzo del sito sul lavoro di cui avete parlato nel faccia a faccia con la Furlan? Certo. Il sito è jobyourlife.com. jobyourlife.com. forse lì si trova lavoro. Scusa, Mario. Anche a Goldman, se sei se sei ben messo dal punto di vista delle conoscenze dell'alta finanza. Insomma, questi qua sono 467, sono la creme della creme dei circa 29.000 dipendenti che ha Goldman. Beati loro, complimenti per la promozione. E intanto vediamo un po' la Tardelli oggi, la quota rosa dove ci porta. Volevo raccontarvi un video che ho visto su internet. So che siamo in radio, quindi non è il massimo parlare di immagini, ma è molto facile da descrivere. C'erano un ragazzo e una ragazza dentro un ascensore, avranno avuto meno di 30 anni, quindi molto giovani, e il ragazzo insultava la sua fidanzata, le metteva le mani addosso, era, insomma, era proprio estremamente aggressivo. Tutto questo mentre c'erano altre persone che prendevano quell'ascensore, e di fronte a questa scena non facevano niente, ma proprio niente, cioè... Stavano immobili in silenzio, qualcuno addirittura si girava dando le spalle al ragazzo violento e alla ragazza in evidente difficoltà. Una signora al telefonino addirittura alzava la voce, disturbata dai due, per continuare la sua telefonata. Questo filmato, per fortuna, era un esperimento sociale. Alla fine cosa è venuto fuori? Che solo una ragazza su 53 persone di sesso ed età diverse ha reagito, dicendo una cosa semplicissima, cioè: se non la smetti adesso sono costretta a chiamare la polizia. Cioè, solo una persona è riuscita ad affrontare la realtà. Solo una persona è stata capace di agire per il cambiamento. Cioè, che dire, cioè, io non sempre e nemmeno voglio sempre darmi una spiegazione per le cose che vedo che mi accadono, e questa volta è una di queste, però veramente mi chiedo: ma perché è così difficile per le persone, e quindi mi includo anch'io, agire per cambiare quello che ci appare chiaramente sbagliato? Ci vogliono gli agenti del cambiamento, li troveremo, i nuovi mille, va bene. Makes you try to explain. Makes you forgive and forget. Makes you change. Yeah, yeah. It's a change. Salamini. Il patto del Nazareno, essendo un pacco, molto, si rivela però un patto d'acciaio. Perché Matteo Renzi, alla testa del 40%, ha salutato in Silvio Berlusconi, fondatore dell'area moderata, il più sincero degli alleati. Tutto è stato dato a tutti. Un osso, il 3% della soglia minima, ad Angelino Alfano, che da capo della destra, quale voleva essere, si accontenta del minimo sindacale. Ci sono poi i capilista bloccati, 100 collegi, e quindi i professionisti, più che professionisti, saranno contenti, perché Poi la sostanza, insomma, qui ce lo diciamo, caro Giovanni, caro Mario, è quella di andare a vedere quale sarà questo candidato al Quirinale, fino ad oggi segreto, che noi conosciamo, però non lo vogliamo rivelare, se non attraverso un quiz. Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno s'avverasse... Ecco, comincio a tratteggiare l'identikit. Allora, innanzitutto, ha una platea internazionale, dirige e comanda a bacchetta. Certo, è inviso ai sindacati. A differenza di Massimo D'Alema, che comunque resta il mio il preferito. Il tuo candidato, il nostro sei tu, lo sai. Produce olio anziché vino. Allora, do un altro indizio. Parla. È il maestro Scannagatti che si esibisce in questo momento. Insomma, ma parla molto. Volete un altro indizio? Volete un altro indizio? Sì, allora io ho un'idea. Ecco, io dico che gli indizi li abbiamo dati tutti, l'identikit è chiaro, non diciamo il nome, invitiamo quindi gli ascoltatori via tutti Twitter, via Facebook, via telefono, via SMS, quali sono i numeri? 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, chi indovina? Vabbè, io senza la lente non riesco a vedere. Io non parlo, non dico niente. Pietrangelo, siamo al canzoniere, ma prima di leggere il tuo speech bisogna che dai qualche indicazione, perché se no non indovina nessuno. Diamo le indicazioni prima. Indicazioni prima. Allora, l'autore è compaesano dell'attuale premier. Sono della stessa zona. Perché proprio non è proprio cittadino. No, certo, perché lui è nato in quella sua predappio che è Pontassieve, no? Non è proprio cittadino. Lo so, insomma, stessa zona, però. Vabbè, proviamo a leggere. È stato podestà, però, della città. Sì, però podestà. Non è cittadino proprio. Quindi. Poi il sindaco, ma quello, non cittadino. Il premier è guelfo. Quello fu Ghibellin Fugiasco. Molto ghibellino. Ora io dico, se non indovinate dopo aver dato questa indicazione, vi meritate Benigni! Ah, vai! Musica! Volgete gli occhi a veder chi mi tira, per chi non posso più venir con voi, e onoratel che questi è colui che per le gentil donne altrui martira. Ora io non vorrei interrompere Satie, però anzi sì, lo voglio interrompere Satie, perché comunque a tutti quelli che non hanno indovinato voglio dedicare questo saluto speciale che viene dal profondo degli angoli delle scuole. Immaginatelo. E sono pur sempre un ex professore. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Questa parte ormai è varietà puro. No. C'è ancora una bolla tu, Mario? Dai. Mi stavo annoiando con tutti sti classici. Una cosa. Ci dai, va a fare col punk. Andiamo nel futuro. Allora, questi intanto erano i Daft Punk, Robot Rock. Ma sì, evochiamo il robot perché non è Robocop, ma ci stiamo avvicinando rapidamente al soggetto della famosa serie di telefilm e poi film. Una startup della Silicon Valley, la Nightscope, ha progettato un robot. Il nome è K5, dovrebbe sostituire i normali sistemi di vigilanza. Ora, quindi non avrai più una guardia giurata, ma un robot. L'aspetto è un cono, la sensazione sembra buono, ma non lo è affatto. Sapete qual è la verità? Qual è? Gli manca solo la pistola. E poi, io robot. Salamino! Il mistero della panda rossa, di quella specie di crocetta che è Ignazio Marino, si infittisce. Tutto è nato dal servizio della Iena, Dino Giarruso, che 2 settimane fa scopre che oltre al pasticcio del Senato nel parcheggio dove va gratis il sindaco, lui immagina che il permesso della zona traffico limitato fosse a quel punto ben scaduto. E lì allora la nostra Iena Giarruso va a indagare e scopre tante di quelle multe il cui valore ormai è pari a quello di una panda. E siccome siamo pur sempre coatti nella radice, noi sappiamo qual è l'etimo vero della panda, che è ciò che serve perfetta, appunto, panda. Giusto? Panda. Diremmo noi coatti. Metteremmo quindi questo accento sulla A. Il giallo dell'annullamento, poi l'altro ieri per sfuggire a Giarruso cade dalla bicicletta e infine si fa trovare in divieto di sosta. E a questo punto direbbe Totò: qui si abusa! E io vorrei dare la voce a Totò. Totò. Ma che sta facendo la contravvenzione? Per forza, non guidare. Strano, quando ho lasciato la macchina c'era il parcheggio autorizzato. Lo so, cara signorina, ma cosa vuol farci? La segnaletica stradale cambia da un momento all'altro. Ma non potrebbe chiudere un occhio per questa volta? Non posso, signora, sono dispiacente e sono dolente. Commetterei un'ingiustizia nei confronti degli altri che hanno già pagato la multa. Perché lei, in linea eccezionale, posso praticare un piccolo sconto. Vabbè, questa è una 1.400. 1.000 diviso 4, beh, mi dia 250 lire e non ne parliamo più. Senta, io ho soltanto 500 lire. Se vuole vado a cambiare. No, io ho molta fretta, la bambina mi fa tardi a scuola. E allora facciamo così. Imbocchi pure quel divieto di transito, è sul 300. Non tenga conto del divieto di svolta a destra e sono 400. Suoni pure il clax fino alla scuola e siamo qua. Va bene, grazie infinite. Buongiorno, signora. Aldo Settembrini, un imprenditore, ci chiede ancora il sito jobyourlife.com. Grande successo a richiesta. Nella seconda ora dopo il GR, naturalmente, parleremo di un grande italiano, di Walter Bonatti. Oggi a Milano, Palazzo della Regione, si apre una mostra Walter Bonatti, fotografie dai grandi spazi. Marina Milone ce la racconta, intanto un breve estratto. Io non ho viaggiato tanto nella geografia quanto dentro di me, ecco, questo tengo veramente a sottolinearlo. La mia vera esperienza, che io ritengo tale, è stata quella di fare un viaggio dentro me stesso per capirmi, e capendo se stesso, a mio avviso, si impara a capire anche il mondo che ti circonda. Bene, ricordo allora Walter Bonatti, raccontato da Marina Miloni. Gazzè, Fabi, l'amore non esiste. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde a più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste, ma esistiamo io e te, è la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene, l'amore non esiste.